e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Non portami dove non posso arrivare, dove si smette qualsiasi pudore. Fammi sentire cosa vuol dire viaggiare leggeri. Sei sempre così, il centro del mondo. Alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione indetta dalla FAO e che si celebrerà proprio qui a Expo Milano, che diventa per l'occasione un po' il centro del mondo, a Cuore Denari torniamo ad occuparci di alimentazione sostenibile, protezione sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale. È il tema di questa 34esima edizione, perché come recita lo slogan della FAO, se non costruiremo un futuro degno per tutti, non ci sarà un futuro accettabile per nessuno. Allora diventiamo la generazione fame zero. Ognuno di noi può fare la differenza anche attraverso le piccole cose, come l'impegno a cambiare semplici azioni del nostro quotidiano, ad esempio riducendo gli sprechi. Ne abbiamo parlato tante volte, perché ognuno di noi deve essere, e prendo in prestito una celebre frase di Gandhi, il cambiamento che vuole vedere nel mondo. Allora 800 24 00 24, un numero verde per raccontarci la vostra ricetta antispreco, un piccolo passo verso la generazione fame zero, ma non solo. Con il dottor Filippo Ongaro, che è tornato a trovarci, lo saluteremo tra poco. Parleremo anche dell'alimentazione, che ci permette di mantenere e recuperare la salute per investire in un futuro di benessere in perfetto stile Cuore Denari. Quindi se volete avere consigli per tornare al vostro peso forma o suggerimenti per recuperare benessere attraverso l'alimentazione, 800 24 00 24. Deborah, eccoci qua, hai detto Ciao. La parola magica, investire. Ti saluto sì. Da Roma intanto. Ciao. Come va lì senza di me? Malino, torni domani? Torno domani, promesso. Però sono qua, sono virtualmente a Milano, concretamente a Roma. Nella seconda parte della nostra trasmissione, come ogni giovedì, ci aspetta la lezione della nostra scuola di risparmio, e colleghiamo Roma e Milano parlando di quella che è una vera e propria istituzione per il nostro paese, Poste Italiane, che ne avrete sicuramente sentito parlare, si quota in borsa. Abbiamo già dedicato una puntata venerdì scorsa all'argomento, lo ricorderete bene, è stata anche molto vivace. Abbiamo qualche dettaglio in più, perché ricorderete venerdì avevamo preannunciato l'arrivo del via libera da parte della Consob al prospetto informativo dell'operazione, prospetto che è arrivato proprio venerdì in serata, un bel documento, Nicoletta, di quasi 1000 pagine, e quindi c'è da divertirsi a leggerlo. Noi oggi cercheremo di sintetizzarlo con le informazioni essenziali per i piccoli risparmiatori. Facciamo un beniamino, Deborah? Un piccolo, esattamente. Ci proviamo almeno con i nostri consulenti, e intanto aspettiamo tutte le domande dei nostri ascoltatori, possibilmente non per posta, ma all'800 24 0024. Dopo. Deborah, tu sei a Roma, sì. Ma lo sai sì. Che noi qua a Milano festeggiamo Carmelo, Carmelo Lauricella, so. che oggi compie gli anni, un bilancino. Vuoi fare gli auguri in diretta anche tu, come abbiamo fatto posso noi? Posso anche confessare che stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: perché non sei qua, che avevo portato tutti i pasticcini. Sì, io mi sono mangiato i gomiti invece che i pasticcini. Allora, abbiamo delle brioche al cioccolato che offriremo naturalmente anche al dottor Ongaro, solo virtualmente, perché intanto non è qui in studio, ma insomma ne parliamo. Intanto numero verde per festeggiare anche Carmelo, 800 24 0024. Allora, questo è il sonoro dello spot realizzato per la giornata mondiale dell'alimentazione. Abbiamo messo il link sulla nostra pagina Facebook e quindi potete vedere il video. Le celebrazioni, come anticipato, si terranno ad Expo, contesto perfetto per il tema di quest'anno, che come ho già ricordato è protezione sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale. Un tema che è assolutamente in linea con quello di Expo, ovvero nutrire il pianeta, energia per la vita. Anche noi vogliamo festeggiare la giornata, naturalmente con un taglio alla Cuore Denari, e lo facciamo con un grande esperto che è tornato a trovarci, il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, autore di numerosi libri. Il più recente è Star Bene Davvero, e oggi ci aiuterà a stare bene davvero. Buongiorno dottor Ongaro, bentornato. Buongiorno a tutti, un piacere essere con voi, anche se le brioche al cioccolato, Nicoletta, proprio per me, no? Diciamo che non è esattamente la mia colazione, ma mi fa piacere essere di nuovo con voi. Allora, dottor Ongaro, due appuntamenti a pochi giorni di distanza uno dall'altra ci portano a riflettere su due problemi di portata mondiale, abbondanza e scarsità. Parlo dell'Obesity Day e della Giornata Mondiale delle Alimentazioni, che cadono rispettivamente il 10 e il 16 ottobre, che hanno fatto di questo mese il mese degli opposti, se ci pensiamo, no? Il mese della sazietà e della fame, dell'eccesso e della mancanza, sono facce della stessa medaglia che producono e conducono risultati analoghi: malattie, malessere, disuguaglianza. Allora, dottor Ongaro, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di scriverci una ricetta o la loro formula personale per combattere gli sprechi, perché forse questo è il primo piccolo passo che ciascuno di noi può fare per costruire e diventare la generazione fame zero. Si vuole unire a noi? Beh, indubbiamente, anche perché questo, Nicoletta, è uno dei paradossi proprio del mondo moderno. Abbiamo circa 1,5 miliardi di persone sovrappeso o obese e un numero pressoché equivalente di persone affamate. Quindi il primo passo indubbiamente è quello di guardarci allo specchio, mangiare tutti un po' meno o un po' meglio, cioè tornare a capire che il cibo non è solo un piacere, ma una risorsa fondamentale per ogni essere vivente. È vero, mangiamo troppo, male, i dati tra l'altro fotografano una situazione a dir poco allarmante, le ricadute del sovrappeso sulla nostra salute sono note e a soffrirne anche la salute del nostro sistema sanitario. Si spendono ogni anno 22 miliardi di euro e il 64% di tale cifra viene speso per l'ospedalizzazione. Ma, dottor Ongaro, sorprende la relativa facilità anche in termini di tempo con cui si ingrassa e al contrario al tempo che ci si mette per dimagrire. I chili si accumulano nel giro di poche settimane, ma a buttarli giù ci si mette mesi. È come se si affezionassero. Come mai, dottor Ongaro? Un po' è proprio che si affezionano. Noi siamo programmati per aumentare di peso, Nicoletta. Proveniamo da un passato dove il cibo era una risorsa assolutamente scarsa e accumulare con facilità rappresentava una chance in più di sopravvivere, quindi era un aspetto molto importante. Oggi quella stessa capacità ovviamente gioca contro di noi, perché il cibo invece, almeno in Occidente, è in eccesso, non ci muoviamo più, mangiamo troppo e il bilancio calorico ovviamente conta, ma conta anche il terreno metabolico della persona che dà maggior importanza sempre alle calorie in eccesso rispetto a quelle in difetto, purtroppo. Certo. Quindi è vero che c'è una facilità ad accumulare che non è esattamente analoga alla capacità di perdere quei pesi che mettiamo in eccesso. Allora, dottore, ciascuno di noi sa se è nel suo peso forma, ma c'è una formula molto semplice che permette di saperlo con precisione, ed è l'indice di massa corporea, un indice che è stato un po' messo in discussione, ma la formula l'abbiamo detta più volte, la ripetiamo: peso in chilogrammi diviso per altezza in metri al quadrato. In generale, dottor Ongaro, un indice di massa corporea tra 18,5 e 25 è considerato normale, quindi sano, da 25 a 29 è a rischio, mentre uguale o superiore a 30 è ritenuto ad alto rischio. Ma a proposito di rischio, i chili di troppo pesano sulla nostra salute nel breve e nel lungo periodo. Per alcune persone basta infatti superare di qualche chilo il peso forma per vedere alterati i valori pressorio, vedere muovere la glicemia. È una questione, dottor Ongaro, di tempo o di chili, di peso? È una questione di entrambe in realtà. Insomma, se si prendono molti chili in poco tempo si destabilizzano i parametri metabolici anche piuttosto rapidamente. Devo dire che queste sono le situazioni in cui in genere ci si accorge di ciò che sta accadendo. Forse prestiamo invece meno attenzione a quei piccoli aumenti di peso molto distribuiti nel tempo, che si notano poco e che diamo quasi per scontato e che però poi con il passare degli anni possono comportare anche e cambiamenti del metabolismo. Diciamo che l'aumento di peso non è un fattore esclusivamente estetico come molte persone tendono a descriverlo. L'aumento di peso in realtà ha a che fare, come abbiamo detto in apertura, con la salute delle persone, quindi anche i piccoli aumenti protratti nel tempo possono comportare qualche disequilibrio. Allora, prima di andare alle informazioni sul traffico, intanto voglio salutare Carla da Treviso, che è già in linea con noi. 800 24 00 24 state già chiamando, continuate a farlo, spazio naturalmente ai vostri interventi e alle vostre ricette. Nicoletta, posso chiederti di ribadire la formulina, perché io non capisco mai se è il peso in chilogrammi diviso per altezza poi poi tutto il risultato lo si fa al quadrato, oppure se allora, dobbiamo fare, ecco. Allora, dottor Ongaro, fuori la formula, peso in chilogrammi diviso per altezza in metri al quadrato. Ho una distesa di calcolatrici pronte a fare l'esame. Facciamo un esempio semplice. Grazie. Dottor Ongaro, intanto facciamo un uomo che 75, Valerio Rocchetti si sta candidando. Allora, 75 kg pesa il nostro Valerio. Altezza, e Valerio? 1,85. Che fustaccione. Eh sì, vero? Esatto, poi con dottor questa Ongaro, barba che si è fatto, ecco, crescere ultimamente. Che cosa vogliamo farne di questi numeri? Allora, qual è il peso? 75. Allora, i 75 li dividiamo per l'altezza di 1,85, poi il risultato finale va fatto al quadrato, sì, oppure l'altezza devo farla subito al quadrato? No, fai questa divisione, il numerino che ti, ecco, viene qua. Devi cercare di vedere se tra 18 e 5 è 25, vuol dire che il nostro Valerio è in ottima, cioè è perfetto. 22 che è un buon valore per un uomo. Ottimo. Vero? Poi da 25 a 29 è un pochino a rischio e invece se è uguale o superiore a 30 potrebbe essere ad alto rischio, ma potrebbe essere utile aggiungere un altro valore, la circonferenza addominale, così in 448 sappiamo se il nostro sovrappeso è lieve o grave, anche dove si distribuisce il grasso, se nella zona addominale o in tutto il corpo, oppure magari sui fianchi. Vi ricordate, un tempo si parlava di costituzione a pero o a mela, perché il modo in cui è distribuito il nostro grasso conta, come conta anche dare la linea alle informazioni sul traffico, perché sennò sforiamo. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Orecchiette alla pugliese, tortellini alla bolognese. A noi ci piace mangiare. Salti in bocca alla romana, melanzane alla parmigiana. A noi ci piace magna. Aggiungiamo anche le brioche al cioccolato di Carmelo Lauricella che festeggia. Insomma, mangiamo forse troppo, è vero che bisogna però, dottor Ongaro, che risaluta in linea con noi, avere una dieta varia e equilibrata senza però rinunciare al gusto, non dobbiamo mortificarci. Ma di fronte ai chili in più abbiamo tante giustificazioni, no? Mangio poco, ma assimilo tutto, è colpa della tiroide, oppure sai, mi è cambiato il metabolismo, oppure sono intollerante, ingrasso per lo stress, ingrasso perché mangio fuori casa. Diteci a che cosa attribuite qualche chili che avete, no, in più. 800 24 00 24, oggi li misuriamo attraverso il calcolo dell'indice di massa corporea, la circonferenza addominale, insieme al dottor Ongaro, ma non vi daremo solo consigli per ritrovare il peso forma, ma vogliamo parlare anche del cibo che nutre la salute. E quindi se vi accorgete che il vostro intestino funziona male, se fate fatica a digerire, se sentite che la vostra energia fisica e mentale sta calando, chiamateci, perché attraverso proprio i consigli del dottor Ongaro proveremo a stare bene davvero, come cita il titolo proprio del suo ultimo libro. Carla, buongiorno da Treviso. Pronta? Sì, buongiorno. Spazio alle telefonate. Complimenti per tutto. Buongiorno. Grazie. Vuole fare anche lei gli auguri a Carmelo, Carla? Certamente, sì. Tantissimi auguri. Ok, grazie Carla. Allora, sì. Io ho cambiato alimentazione perché un amico mi ha veramente introdotto alla consapevolezza nei confronti di quello che mangiamo, sì, ed effettivamente mi ha cambiato la vita e io sto cercando di altrettanto contagiare amici miei che vedo in difficoltà sul piano fisico. Io ho cambiato alimentazione di colpo, abbastanza velocemente, ho eliminato tutti i cibi industriali, cerco di mangiare pochissimi cibi tanto elaborati, ho introdotto dei semi al momento della colazione, l'olio di lino, e mi trovo veramente molto molto bene in un'età che è particolarmente critica, che è quella mia, insomma, di 53 anni, ecco. Mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita, ci racconta, sì, Carla da Treviso. Dottor Ongaro, piccoli cambiamenti possono davvero avere degli effetti così importanti per il nostro benessere? Beh, io penso proprio di sì, d'altra parte anche il contrario è vero, no? Nel senso che quando mangiamo in maniera disattenta e non curata non è che ci ammaliamo subito. Allo stesso modo sono cambiamenti piccoli che nel tempo fanno un effetto importante. La stessa cosa quando correggiamo l'alimentazione, si può correggere in maniera più drastica, si può correggere in maniera più diciamo graduale, la cosa che conta è lasciare al tempo di sortire i propri effetti, cioè il cambiamento alimentare non ha senso farlo se lo limita a una settimana, qualche giorno, un paio di mesi. Dobbiamo, l'abbiamo detto tante volte, uscire da una mentalità che è quella legata alla dieta a tempo e pensare ad uno stile alimentare da adottare invece per sempre, in sostanza. E Carla ne è un esempio, a Treviso, sarà dietro l'angolo, sono a Treviso anch'io, non so dove si trovi, ma mi fa piacere sentire che Carla è qui e ha fatto questo cambiamento. Dottor Ongaro, noi lo sappiamo quando mangiamo bene o quando no, cerchiamo, rischiamo un po', no? Quando la nostra dieta diventa troppo ricca di grassi, di zuccheri, ne abbiamo parlato tante volte, e si dovrebbe dare più spazio ai cibi integrali, alle verdure, ai legumi, ma facciamo anche errori senza accorgercene. Allora, ci aiuti a scoprirli, ci mette un po' in guardia dalle trappole, ci dica ad esempio i tre errori che possono costarci caro. Allora, io vorrei diciamo citare tre cose che sono un po' diverse dal solito, Nicoletta, perché abbiamo parlato di questi temi molte volte e devo dire che più interagisco con le persone più capisco che a volte questi errori non stanno proprio nella tavola ma stanno più nella nostra testa, e cito tre cose: il cibo come consolazione, il cibo come ansiolitico e il cibo come hobby e svago. Allora, questi sono tre fenomeni, al di là dell'errore singolo alimentare che possono in qualche modo contenere, sono tre fenomeni molto comuni. Nel primo caso il cibo viene usato come una sorta di antidepressivo, compensa le carenze della nostra vita. Nel secondo come un ingrediente per combattere la stanchezza, lo stress, l'ansia, l'eccesso di lavoro, i problemi, eccetera. Nel terzo diventa il motivo centrale e unico della socializzazione e dello stare con gli altri. Sono tutti fenomeni naturali, ma sono questi fenomeni che io chiamo proprio psicocomportamentali a diventare le vere trappole. Perché tutto sommato, Nicoletta, anche grazie al lavoro che si fa in programmi come il vostro e in altri, la gente ormai sa dove stanno gli errori alimentari, insomma quasi tutti sanno che sarebbe meglio mangiare l'integrale, di stare attenti con certi tipi di grassi, l'eccesso di sali, i dolci, tutti sanno che i broccoli sono probabilmente più sani delle patatine fritte, quindi tutto questo discorso secondo me va portato ad un altro livello, va portato al livello del dire ok, sappiamo tante cose ma perché non le facciamo? Il perché non le facciamo spesso è legato al ruolo che diamo al cibo, che non è più un ruolo di nutrimento, ma è un ruolo di compenso di tutta una serie di altre cose. E quando questo ruolo diventa prevalente, perdiamo il filo del discorso e caschiamo in tutta una serie di trappole che conosciamo benissimo, sappiamo che ci sono, ma non riusciamo ad evitarle. Allora, pensiamo ad una nostra giornata tipo e cerchiamo di capire se il cibo è per noi consolazione, ansiolitico, hobby o svago. Dopo il GR torniamo di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Nutrirci e curarci, un binomio che sta diventando sempre più evidente. Oggi l'invito che vi facciamo è di considerare il cibo non solo come carburante ma anche come la principale risorsa per mantenere, magari accrescere lo stato di salute oppure recuperarlo se l'abbiamo perduta. 800 24 00 24 in linea con noi abbiamo sempre il nostro dottor Filippo Ongaro. Buongiorno e ribuongiorno dottor Ongaro. Buongiorno di nuovo. Allora dottor Ongaro, tantissime telefonate, messaggi eccetera, la prima è di nuovo la formula dell'indice di massa corporea. Per chi volesse usare la calcolatrice, ci sono naturalmente anche dei siti su internet in cui basta digitare peso e altezza e viene fuori già il numerino, oppure prendere il centimetro e misurarsi la circonferenza addominale, quindi intorno all'ombelico. Dottor Ongaro, una formula semplice, ce la stanno chiedendo in molti. Ma allora, la formula è piuttosto semplice. Se prendiamo una persona di 1,80 m, facciamo il quadrato di 1,80 m, quindi 1,8, lo moltiplichiamo per 1,8, viene 3,2. Se questa persona pesasse 80 kg, suddividiamo gli 80 kg per 3,2, viene fuori 25. Ne approfitto per dire, 25 sarà una persona che per indice di massa corporea viene già classificata come borderline, tendenzialmente a leggero sovrappeso, però l'indice di massa corporea nulla ci dice di cosa sono fatti questi chili. Questa persona potrebbe essere molto muscolosa e essere 80 kg di muscoli non avrebbe alcun problema. Ecco l'utilità di abbinare la circonferenza addominale, che ci dice anche se questi 80 kg sono invece molti di grasso concentrato attorno all'addome. E lì la misura ideale dovrebbe essere lo stare sotto i 100 cm per l'uomo e sotto i 90 cm per la donna. Queste sono due misure chiaramente molto semplici, però abbastanza utili. Ci orientano. Lei ci ha invitato a considerare tra gli errori che possiamo fare nella relazione con il cibo l'aspetto psicocomportamentale e ha sottolineato il cibo come aspetto consolatorio, come antiansia oppure come occasione di svago. Naturalmente molti nostri ascoltatori, tra cui Jessica, ci hanno scritto quale sarebbe allora la soluzione ai tre errori, perché ad esempio Raffaella da Como ci racconta che ieri sera dopo cena, quadretto dopo quadretto, ha mangiato una tavoletta di cioccolato intera e ci scrive: saranno circa 600 calorie, ho 54 anni, menopausa, sto gonfiandomi di pancia, a proposito della circonferenza addominale, Deborah, e sto diventando golosa e non sono mai stata così. Dottor Ongaro, dovrebbe tornare e ritornare. Jessica, Jessica chiaramente ha perfettamente ragione. Devo dire, identificare la sorgente di un problema non significa necessariamente sapere quale sia la soluzione. Quindi io quello che mi limito a dire è un problema molto più complesso di quello che tendiamo a cercare di risolvere con la semplice dieta fatta due mesi prima dell'estate. Credo che acquisire la consapevolezza che il piano dell'errore è un altro e che la questione non è il singolo alimento, la singola settimana, ma è l'atteggiamento mentale che abbiamo nei confronti del cibo e il ruolo che siamo disposti ad attribuire a questo cibo sia un primo passo verso un'eventuale soluzione. Nel certo. momento in cui accetto che il cibo è un nutrimento e che certamente può essere anche uno svago e a volte un'occasione di socializzazione, ma che in primo ruolo io devo accettare che il cibo è un nutrimento, punto e basta, sposto immediatamente il piano del problema sul ma perché ho tutto questo bisogno di consolazione. Ma cosa posso fare per ridurre lo stress ed evitare quindi che sia la cioccolata ciò che contribuisce a ridurre il mio stress? Quindi Jessica, non c'è la formula magica, ma c'è un lavoro di quello che gli addetti chiamano di consapevolezza. Attilio, buongiorno da Napoli, poi andiamo a Marco da Torino. 800 24 00 24, investite nel nostro numero verde prima di parlare di aprire la rubrica Investire Informati, perché dottor Ongaro, ti è piaciuta Deborah? Pensa l'assist, lo sai che io li amo sempre molto. Allora, Attiliuccio, buongiorno, ci chiama da Napoli, che succede? Buongiorno. Allora, premesso che tutti quelli che tendono ad ingrassare o che diciamo che siamo chiatti, siamo dei grandissimi bugiardi, quindi ci autogiustifichiamo in tutte queste situazioni. Io quello un che po' volevo... come succede sempre a Nicoletta in tutte le dipendenze, no? Certo. Si tende un pochino a... Quello che in realtà volevo chiedere al dottor Ongaro e se eventualmente insomma mi poteva dare il giusto consiglio è questo. Io sono arrivato a 50 anni, da maggio-giugno ho scoperto di avere una leggera tendenza all'aumento della glicemia, faccio diete da 30 anni ormai a questa parte quando praticamente ho scoperto di avere questo problemino con la glicemia, ho iniziato a fare bicicletta e tappeto. Detto questo, praticamente anche facendo tutto sto sforzo fisico tappeto non che si stende al tappeto e sta lì. Un'ora di tappeto Un'ora di tappeto vuol dire una roba faticosa, no? Perché guardavo Laura Vanossi, che già l'idea le piaceva, un'oretta di tappeto, quello. Vabbè, Attilio, quindi ho fatto e non ho visto nulla. Dottor Ongaro, che cosa si può suggerire ad Attilio? Andiamo sul consiglio pratico, perché da un primo cambiamento ne seguono poi altri. Siamo nelle sue mani. Premesso Attilio che ovviamente il problema può essere di varia natura, bisogna capire se è necessaria o non è necessaria una terapia, quindi quello che posso dire è semplicemente così, un'idea. Però attenzione che può essere che l'attività esclusiva di tipo aerobico, cardio, cioè bici tappeto, non sia l'attività più idonea per ristabilire un meccanismo di metabolismo corretto. Io ai miei pazienti suggerisco sempre di tenere in considerazione l'aspetto muscolare e a volte l'introdurre una, due, tre volte alla settimana un piccolo allenamento con dei pesi fa una differenza molto grossa, perché è la muscolatura che permette di ottimizzare la regolazione della glicemia e dell'insulina. È un meccanismo complesso di cui non riusciamo a parlare nel dettaglio adesso, però il consiglio che io darei è di verificare se non sia il caso di ridurre un po' i carichi su quel tipo di attività fisica lì e aggiungere invece un'attività che sia di grande beneficio anche alla muscolatura. Quindi bisogna fare dei lavori che impegnino, degli esercizi che impegnino i muscoli, quindi si va in palestra, si fanno i pesi, ci si fa consigliare anche magari da un personal trainer, impostare anche magari un programma che si può anche fare a casa, dottor Ongaro. Sì, assolutamente, non è detto che debba essere per forza la palestra il luogo, l'importante chiaramente è mentre camminare siamo in grado di capire come si fa su un tapirulante piuttosto facilmente, certo. Quando subentrano degli esercizi contro resistenza, con degli elastici, con dei pesi, comunque una certa fase di istruzione a come fare l'esercizio ci vuole, ma insomma le persone in grado di farlo sono molte e credo che alle volte questo possa fare una grande differenza anche nella regolazione del metabolismo e anche nella regolazione del peso corporeo. In Italia c'è molto la tendenza a suggerire quasi esclusivamente un lavoro di tipo aerobico con l'idea di consumare di più, ma in realtà una delle chiavi principali per perdere peso è aumentare il metabolismo basale, non tanto quello che consumo mentre faccio sport, ma quello che consumo nelle 24 ore, e il metabolismo basale dipende strettamente dalla massa muscolare della persona. Allora, dottor Ongaro, intanto Manu dalla provincia di Belluno ci scrive: quanto lo amo sto dottore, anche io e Deborah ripetiamo sempre queste cose qui. Esatto. A me non me non allarghiamoci, perché anche noi abbiamo un po' la precedenza. Non ho ancora prescritto una dieta, Nicoletta, perché non vi ho ancora detto, poi vi amate meno dopo. Allora, e poi come si può fare per avere il libro del dottor Ongaro? Ci sono le librerie, ma magari nella prossima occasione il dottor Ongaro verrà qui, ci porterà qualche libro e troveremo e il modo per il domandone. Perché noi dobbiamo far muovere gli ascolti, dobbiamo fare una muscolatura, ecco. Esatto. No, poi prendete anche quelli fisici di libri, così almeno ci fate anche qualche esercizio per il rafforzamento muscolare. Vedi come è piaciuta questa idea? Molto. Dottor Ongaro quindi deve tornare qua a trovarci. Tornerò al più presto. E intanto, se avete delle domande, delle richieste, scriveteci, noi le inoltreremo al dottor Ongaro. Buona giornata, dottore. Grazie. Anche a voi, buona continuazione. Noi tra l'altro adesso parleremo di cifre. Io ho ricalcolato per la 5.000.000ª volta, Nicoletta, il mio indice di massa corporea. Sono sempre l'intorno a 22.5. Mi pare che possa andare benino. Ma sei benino, perfetta, no? La perfezione è un'altra cosa. Come dice il dottor Ongaro, bisogna vedere come è distribuito. E quindi magari lì qualche piccola magagna la scopriremo. Allora, mi prendo la linea per andare al prossimo argomento? È tuo. Allora, i mestieri informati. Esatto, allora è arrivato il momento di cambiare argomento. L'hanno chiamata la madre delle privatizzazioni in Italia. Parliamo naturalmente della privatizzazione delle Poste Italiane. È partito il collocamento di questa società lunedì scorso, giornata dalla quale è possibile recarsi in banca per prenotare un lotto di azioni. Il gruppo poi sbarcherà ufficialmente in borsa a Piazza Affari il 27 ottobre, martedì 27. Noi abbiamo già parlato questo argomento, Nicoletta prima giustamente lo ricordava, l'abbiamo fatto venerdì scorso, però che cosa è successo? Che non avevamo ancora i dettagli di questo collocamento, eravamo in attesa che la Consob desse